una strada che racconta una storia, una storia di cui tu non conservi la memoria. Cronaca nera, quando arriva la sera di una vita spezzata, di una ragazza uccisa. Ma che fattaccio, senza una ragione, nessuno ci pensa più, nessuna allusione. Elvira, di anni 22, una storia d'amore, tutta da vivere spezzata, come un fiore nel suo splendore. Famiglia contadina e principi sani, poche cose quotidiane, abitudini semplici. La storia di Elvira, una vita spezzata, non si è trovata una ragione, un colpevole senza nome, un assassino senza padrone. Di misteri, un padre che ritrova il corpo della sua ragazza, il suo cuore dilaniato, il fidanzato ne è incriminato, ma tutto il paese, poche strade, poche case, lo aiuta e quel che può fa. Gli rendono ma tardi la libertà, ma di quel delitto sbiadito nel tempo non resta proprio più nulla. La vita di una giovane fanciulla spezzata da un'anima dannata, là in quel paese della campagna toscana, la memoria è andata via con l'acqua piovana, un amore chissà non corrisposto, ma un movente non potrà mai dirsi giusto.